Dio, come una bestemmia, ma è un uomo che sa, in cercare un rapporto di aggressione, quale è il bene della terra, come si è sembrato, e se no, perché se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, se non trovate, خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.